24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Le 8, 19 minuti e 30 secondi, la terza parte di 24 Mattino. Di nuovo buongiorno da Simone Spezia, Maria Latella, eccoci, buongiorno. Buongiorno Simone, ciao a tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Che ci possono raggiungere al 349-238-6666, sms, messaggi su WhatsApp, anche audio, 800-24-0024 per intervenire in diretta. In una puntata che sarà ricca, parleremo di criminalità organizzata, ospiteremo più avanti il candidato del centro-sinistra alla guida della Regione Calabria e poi la candidata del centrodestra, Lucia Borgonzoni, alla guida dell'Emilia Romagna. E però, Maria, prima di iniziare tutto questo, una tua impressione su Di Maio ieri, perché so che hai visto, sei andata là e hai seguito la conferenza stampa. Non ho resistito, e da vecchia cronista, come faccio da... vabbè, lo dico da più di 25 anni, dal 1993, quando fui mandata a Roma proprio dal nostro Paolo Mieli a seguire la politica per il Corriere della Sera. Ebbene, ieri sono andata al tempio di, non mi ricordo, insomma, l'ex borsa romana, dove in un salone gremitissimo e non solo di giornalisti, c'erano tutti i ministri schierati, c'erano le esponenti anche più critiche di Di Maio, come Paola Taverna in prima fila, c'era naturalmente Vito Crimi, sì, c'era tutto l'apparato della comunicazione e c'era anche Rocco Casalino in disparte, ma c'era perché Rocco Casalino ha seguito, i nostri ascoltatori se lo ricorderanno, ha seguito Luigi Di Maio per tutta la sua ascesa, sì, fino a quando non è passato a Palazzo Chigi. La mia impressione è stata duplice. Da un lato c'era vera emozione e non un senso di tristezza, nel senso che ci sono stati lunghissimi applausi veri. Ho visto, e non dirò sulle guance di chi, anche delle lacrime dopo il discorso di Luigi Di Maio. Dopodiché, come lo stesso Di Maio ha detto, c'è della schizofrenia nel mondo dei 5 Stelle, perché magari appunto anche quelli che applaudivano hanno avuto un ruolo nel fare pressione. Un'ultima cosa, il gesto del togliersi dalla cravatta. È chiaro che quel discorso è stato preparato per lunghissimo tempo. Il gesto della cravatta che si toglie mi ha ricordato un altro gesto del quale molti anni fa, nei primi anni 90, molto parlammo noi cronisti all'epoca, ed era il gesto col quale Antonio Di Pietro, davanti alle telecamere, si tolse la toga quando lasciò la procura. Attorno a quel gesto abbiamo fatto decine di articoli, ricamammo, eccetera, e Di Maio ha ottenuto quello che voleva, perché di questo gesto del togliersi la cravatta hanno parlato tutti. Sì, posso che quel gesto non fosse semplicemente un "t'aspetto fuori", tipo ma ti pare il tipo, però, Luigi Di Maio? Non mi pare, però forse chissà. Allora, buongiorno al generale Giuseppe Governale, direttore della DIA, la Direzione Investigativa Antimafia. Buongiorno generale, benvenuto. Buongiorno a voi, buongiorno. Maria, inizia tu, prego. Buongiorno. Generale, io so che appunto il rapporto della DIA parla di molti aspetti della situazione italiana e ci arriveremo, però avendo poi anche dopo uno dei candidati alla guida della Regione Calabria, vorrei cominciare da uno dei temi importanti della vita di questo paese, e cioè la radicata penetrazione dell''ndrangheta in tutti gli aspetti della vita sociale italiana. Non è un problema della Calabria, è un problema dell'Italia e tra poco sarà un problema dell'Europa. Ci dite che cosa avete, diciamo, l'aggiornamento sulla situazione, sulla penetrazione dell''ndrangheta in Italia, anche alla luce delle allarmantissime notizie che vengono su diciamo, la protezione alla quale deve far ricorso il procuratore Nicola Gratteri. Sì, parliamo della Calabria e dell''ndrangheta. L''ndrangheta è l'organizzazione mafiosa, in Europa almeno, la più potente e la più pericolosa. Ha vissuto un'epoca nascosta, perché tutti i riflettori erano su Cosa Nostra, cioè sulla mafia della Sicilia. Si differenzia perché ha potuto apprendere la lezione che a fare violenza ad ogni costo non serve a nulla, la pratica che bisogna svolgere è quella della corruzione, una corruzione pervasiva e silente, e ha tenuto conto che quasi la monopolizza il traffico internazionale di stupefacenti in Italia, ha necessità fortissima di fare affari, di riciclare l'enorme quantità di denaro che riesce ad accumulare. Nel territorio di origine, in Calabria, controlla il territorio e lo controlla in maniera sistematica, diciamo così, praticando estorsioni, praticando la minaccia, è un'organizzazione familistica, cioè dove vale la famiglia, il senso di appartenenza, esercita bene quello concetto anglosassone che è l'escalation dominance, la minaccia, l'andrangheta non spara, ha momentaneamente poggiato la pistola sul comodino, però i calabresi e purtroppo anche i settentrionali stanno percependo il cosa significa minacciare senza pistola. Quando comandavo il ROS abbiamo fatto una grande operazione che ha stroncato il traffico illecito dell'olio di oliva e degli agrumi dalla Calabria agli Stati Uniti e anche all'Europa centrale, quando Piero Malli si presenta al mercato ortofrutticolo di Milano, che è il terzo d'Europa, gli imprenditori, che certamente hanno anche il pelo sullo stomaco, sbiancano. Un'imprenditrice sotto intercettazione dice: anche se c'è l'andrangheta dietro, dobbiamo fare affari. Al sud, in Calabria, esercitano il controllo del territorio. Al nord e nelle aree dell'Europa si infiltrano per fare affari. Avvicinano i politici. A volte, come è successo a Brescello in Emilia-Romagna, fanno eleggere ndranghetisti politici negli enti locali. Quindi non avvicinano solamente i politici, ma sfruttando la comunità di riferimento che è sparsa sul territorio nazionale, li fanno eleggere. E li fanno eleggere anche fuori dal territorio nazionale. Abbiamo numerosi casi in Australia e in Canada che rappresentanti dell'andrangheta sono stati eletti al Parlamento. Si immagini che tipo di minaccia tutto questo comporta. Il tema l'ha anticipato lei, generale. La prossima domanda sarebbe stata proprio sull'Emilia Romagna, visto che appunto adesso andiamo al voto. Che livelli di penetrazione ci sono in Emilia Romagna? Abbiamo assistito a grandi operazioni contro la criminalità organizzata calabrese, là è anche un processo, insomma. A che punto siamo? Guardi, ovviamente io non commento ovviamente le elezioni politiche. Beh, ovvio, no, per carità. Sullo sfondo. Io sì, certo. Sono diciamo un chirurgo. È il nostro aggancio di cronaca generale, elezioni. Sto certamente, per aver anche prestato servizio in Emilia Romagna, e ho fatto per 2 anni il comandante provinciale di Modena, che la terra dell'Emilia è una terra, della Romagna, sono delle terre straordinariamente rilevanti, trainanti sul piano economico, e quindi l'andrangheta va, questa è una ricetta, diciamo che è una ricetta, va dove il PIL cresce, e non guardiamo che l'Italia il PIL cresce dello 0,2%, perché 0,2% cresce come media. Col fatto indice 100 il reddito, 61 la Calabria, 62 la Sicilia, 84 l'Umbria, 148 il Trentino Alto Adige, quindi in Emilia siamo oltre. Va sempre dove il PIL cresce, va dove la legislazione antimafia non è particolarmente rilevante, o dove la sensibilità non è particolarmente rilevante, e nelle aree settentrionali del paese la sensibilità non è quella della Calabria o della Sicilia, ce lo dobbiamo dire, perché per il Ligure, per il Piemontese, per l'Emiliano Romagnolo, la mafia rimane qualcosa di lontano, ma non è lontano, perché Sciascia nel 61 diceva che quella linea della Palma, che è la linea della mafia, aveva passato nel 61 Roma. Questo lo diceva Sciascia, ovviamente, che era un osservatore tra i più acuti che l'Italia abbia mai avuto. Generale, va all'estero dove anche perché c'è possibilità di corruzione. Generale, questi sono i tre parametri. L'esperienza di Brescello che cosa ci ha descritto? Che una comunità parte da Cutro, non è che tutti i cutresi sono ndranghetisti, ci mancherebbe altro, ma tutti gli ndranghetisti sono calabresi. Si presenta lì, avvicina i politici, avvicina gli imprenditori, ingenui, a volte capiscono, a volte capiscono meno, ma dato che non si spara, e alla fine si accettano determinate logiche e fanno eleggere consiglieri comunali e orientano le politiche del comune, possono orientare un domani quelle della regione. E questo nella sua esperienza, e veniamo a un dato concreto, no? Perché la direzione investigativa antimafia ha operato attività di verifiche anche sul settore degli appalti, che sono uno dei settori in cui la 'ndrangheta è molto presente. Che tipo di risultati hanno dato le vostre attività di verifica, perché avete fatto anche un focus sulla ricostruzione post-sisma, sul ponte Morandi? Che tipo di verifiche hanno dato il lavoro che avete operato sugli appalti in Italia? Guardi, questo tipo di attività, noi addirittura alla D abbiamo proprio si chiama OCAP, che è un acronimo che significa Osservatorio Centrale sugli Appalti Pubblici. Noi non lo possiamo fare da soli, e ci serviamo anche delle prefetture. Cioè, il prefetto, quando è chiamato ed è corroborato dall'attività delle forze di polizia, a fare un monitoraggio su tutti gli appalti. Lei avrà sentito parlare di white list, cioè di liste bianche. Le aziende devono essere scritte in una lista per poter partecipare agli appalti. Poi ci sono, diciamo, quegli affidamenti che si possono fare senza seguire le regole degli appalti quando c'è emergenza. Pensi al settore dei rifiuti. Molte volte sui rifiuti si va all'emergenza, quindi si scavalcano determinate regole, determinate procedure. Tutte queste cose la Cosa Nostra lo sa bene. Cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto, per esempio, che subito dopo l'inizio dei lavori al Ponte Morandi abbiamo proceduto all'arresto di due imprenditori che già si erano, col sistema dei subappalti, si erano già inseriti. Stiamo verificando attentamente tutti gli appalti dell'area, per esempio, della Umbria o dell'Abruzzo per i terremoti, e perché siamo ben consapevoli di che tipo di minacce, perché quelli si infiltrano se vedono disattenzione, se c'è mancanza di controllo. La loro squadra è una squadra altamente performante che ha sete di potere e di soldi. Se la squadra dello Stato è demotivata, è burocratese, è farraginosa, loro lo capiscono, vedono i punti deboli, per esempio del pubblico funzionario, e cercano di corromperlo. È una battaglia, tra virgolette, che si può vincere questa battaglia, che quando oltre le regole noi costruiamo una classe dirigente della pubblica amministrazione che si sente importante, vuole fare, è animata e motivata. Queste cose le forze di polizia hanno avuto negli ultimi 25 anni una rivoluzione. Comunque, generale, lei deve sapere che qui a Radio 24 questo vostro lavoro è non solo molto apprezzato, sì, ma sarà sempre comunicato. Decisamente, decisamente. Perché, ma noi abbiamo pure un problema. Uno può pensare, ma tutto questo non c'entra niente con la lotta alla mafia. Vi creda, c'entra. Certo, c'entra. Noi abbiamo necessità di costruire una classe dirigente della pubblica amministrazione che si senta fiera di appartenere appartenere alla pubblica amministrazione. E lì lo stipendio non c'entra, mi creda. E conseguentemente, quando... generale sia impermeabile o in gran permeabile. Se tu c'hai lo spirito di club, se tu sei lì non ti fa, cioè un romanista sfegatato non si farà mai corrompere da un laziale, un interista non si farà mai corrompere da un milanista. Confermo. E lì non c'entra. Una volta Montezemolo, quando ero comandante provinciale di Modena, mi disse: comandante, ma sa quanto prendono più i meccanici della Ferrari rispetto ai meccanici della Fiat? Io disse: ma non lo so, eravamo in lire, dai, col 300. No, prendono lo stesso stipendio, mediamente un meccanico della Ferrari con lo stesso stipendio è fiero di essere un meccanico della Ferrari, perché quando va al paese di origine tutti lo guardano, dice, questo, invece quando magari sarà, e adesso sono poveretti, dico nel senso buono, gli operai della Fiat sono bravissime persone, ma ieri hanno detto che la Ferrari è il primo brand del mondo. Ma non è, e quindi va bene, abbiamo capito che dobbiamo spingere l'orgoglio di essere parte della burocrazia italiana per fare bene le cose. Lo faremo. Lo faremo, generale, sicuramente. Grazie, veramente. Grazie al generale Giuseppe Governale, direttore della DIA, della Direzione Investigativa Antimafia. Vi raccomando, tra l'altro, sul sito della Camera lo trovate, il rapporto semestrale della DIA, dove ci sono un sacco di altri elementi interessanti, a partire da quello della mafia nigeriana e non solo, certo, che per far arrivare la nostra pubblica amministrazione ad essere la Ferrari, mi sa che ce ne vuole. Pausa, ma ci crediamo, pausa, però. Pausa. E... Mattino. Pippo Callipo, candidato civico sostenuto dal PD alle elezioni regionali in Calabria. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti. Maria, prego. Allora, Callipo, lei è un imprenditore del tonno tra i più conosciuti veramente in tutto il mondo. Ieri Di Maio, quando ha lasciato la sua carica di capo del Movimento 5 Stelle, ha detto che i partiti soccombono non per i nemici esterni, ma per le pugnalate interne. Mi dica in tutta sincerità, lei si è sentito, si sente in queste ore, in questi giorni, sostenuto da tutto il Partito Democratico Calabrese o è più sostenuto dal Partito Democratico Nazionale che da alcune parti, alcuni esponenti del PD locale? Ma io mi sento sostenuto non solo dal Partito Nazionale, dal segretario Zingaretti, che mi ha dimostrato di avere una grande stima per me, ma non per me solo, per la Calabria. Io ho percepito questo, l'ho apprezzato, anche il PD locale però è tutto con me, ci può essere qualche scontento, però non so se rema contro, però tutto il PD è a fianco a me e stiamo rispettando le regole e siamo in piena armonia. Diventasse presidente, la prima cosa che fa? La prima cosa che faccio da imprenditore, e lo condividono quasi tutti in Calabria, è quello di fare una squadra operativa da subito, da immediatamente eletto, una squadra operativa che possa prendere tutti i problemi che ci sono quasi contemporaneamente. La prima cosa concreta, no Callipo, cosa concreta, il primo fronte di intervento, va bene? Il riordino dell'amministrazione regionale. Con taglio di dipendenti anche? No, tagli ai dipendenti no, se ce ne sono di superflui, se ce ne sono assunti in modo precario e che non servono, sicuramente. Io ragiono sempre, la mia formazione, la mia educazione è quella da imprenditore, 50 anni sul campo, quindi non posso adesso cambiare mentalità. Mi si accusa che non sono un politico e non sono un politico, sono sempre un imprenditore. E molte di queste logiche le dovrò spostare qui, perché è proprio questo che è mancato in questi vari governi che ci sono stati fino ad oggi in Calabria. Un consiglio alla sua competitor, Iole Santelli, che è l'esponente del centrodestra. Noi abbiamo avuto proprio pochi minuti fa ospite il generale della DIA, Giuseppe Governale, che ha ribadito come l'andrangheta infiltri tutto le situazioni, a cominciare dalla politica, a volte candida direttamente lei, l'abbiamo visto anche nel Nord Italia. Su questo un consiglio a Iole Santelli, laddove invece fosse lei a vincere, il fair play, diciamo, tra competitor. Io più che un consiglio potrei dire quello che dico io, che faccio io. Io da 40 anni che lotto l'andrangheta, ma non solo l'andrangheta, vede, in Calabria si è creato un trittico, lo definisco io, ma da 20 anni, non da adesso in campagna elettorale. Questo trittico è composto da andrangheta, da mafia con la penna, che è la cattiva burocrazia, e dalla mala politica. Ecco, di stare attento alla mala politica e di stare attento a tutti quelli che si è imbarcati nelle sue liste, molti di questi, alcuni per esempio 4-5 non li ho voluti io, pur avendo, loro dicevano, nel cassetto 4-5 mila voti, io non li ho voluti perché proprio non corrispondevano a certi requisiti che secondo me bisogna avere per fare politica, ma politica per amministrare i problemi dei calabresi. Callipo, cosa intende fare, sempre se diventasse presidente, cosa intende fare con i mitologici forestali calabresi? Tra l'altro è previsto un nuovo piano di assunzioni da un migliaio di persone, se non vado errato. Ma guardi, uno dei più grandi patrimoni boschivi sono in Calabria. Uno dei più grandi patrimoni del governo della regione Calabria è proprio questi boschi meravigliosi, che bisognerebbe metterli a frutto per essere accessibili e quindi renderli accessibili al turismo, e bisognerebbe farli lavorare. Molti di questi io li conosco, ma non lavorano perché non sono messi nelle condizioni di lavorare. Noi quando parliamo di gente che non lavora, di parassiti, spesso impropriamente si parla dei forestali. E non è vero, le garantisco, io giro sempre, io sto in mezzo alla gente, io sto in mezzo da sempre, la mia vita, a parte in mezzo ai miei operai, però sono stato sempre in mezzo alla società, e so di gente che sono volenterosi, vogliono lavorare, però non sono messi in condizione, perché non sono organizzati, perché io che sono nel settore del tonno, il pesce puzza sempre dalla testa. Non c'è nessuno che può dirlo con più coscienza e competenza, sì, di Pippo Callipo. Grazie Pippo Callipo. Buona candidato giornata, civico, grazie. Sostenuto dal PD alle elezioni regionali in Calabria, e ci ha raggiunto Lucia Borgonzoni, invece candidata del centrodestra della Lega in Emilia Romagna. Borgonzoni, buongiorno, benvenuta, eccoci. Bentornata. Buongiorno, mi scuso per la voce che è un pochino bassa. Non si preoccupi. Dopo tanti comizi. Senta, sì. Lucia Borgonzoni, manca veramente pochissimo ormai al voto di domenica, e si sa che molti elettori decidono all'ultimo momento. Le chiedo, quella scena del suonare al citofono di una persona di nazionalità tunisina per chiedere scusi, si spaccia, Salvini l'ha improvvisata o è stata pensata? E onestamente, ci sono momenti in cui si fanno delle scelte nell'ultima fase della campagna elettorale che possono portare voti o possono farne perdere. Secondo lei quel gesto lì ve ne ha fatti perdere o ve ne ha fatti guadagnare o non ha cambiato niente? Organizzata non era organizzata, perché eri in giro con una signora che vive in quel quartiere, che ora magari chi non è di Bologna lo conosce per vicende bruttissime del passato, la Uno Bianca, molti lo conoscono per quello, quel quartiere. Chi vive a Bologna ora sa che è un quartiere con grandi difficoltà, per cui stava girando con una signora che abita lì, non è che era organizzata. In particolare è dire che uno lo fa perché uno è tunisino o di nazionalità straniera, visto che comunque quando si parla di spacciatori penso che tutti noi condividiamo, ma anche chi ci ascolta, e che siano stranieri, italiani o quant'altro, se si parla, come ha detto la signora, di spacciatori, persone comunque che vendono la droga, penso che la condanna sia uguale, non è che cambia a seconda della nazionalità. Poi penso sia nato in Italia il ragazzo, sì, a seconda della nazionalità o a seconda del colore della pelle. Sì, diciamo Borgonzoni, Borgonzoni è molto problematico. Diciamo che non lo decide la signora se quello è uno spacciatore oppure no. No, però la signora abitando lì vicino probabilmente ha a foto o documentazione, non lo so. Io ad esempio, chi è vicino a casa mia può avere dei comportamenti sbagliati da attività commerciali straniere o persone che abitano, io lo so dire, poi non entro in merito, io non c'ero, non ero presente, però se uno mi chiede o chiede a qualunque bolognese quel quartiere se ha dei problemi, dei grandi problemi di integrazione, poi un grande problema legato anche a uno spostamento di persone che abitavano, ora non è in questo caso specifico riportata questa cosa, però abitavano in un campo nomadi lì vicino che è stato smantellato di fatto anni fa e sono stati spostati tutti nel quartiere, un quartiere che si stava parzialmente riprendendo, è una delle zone più critiche di Bologna e questi bolognesi lo sanno, delle più critiche, sì. Senta, non ieri c'è ancora la caserma, per cui non c'è un presidio, spesso ci sono aggressioni, non è così semplice girare né la notte né di giorno per le tante persone poi per bene che ci abitano, eh. Senta, ieri Di Maio, ne abbiamo parlato lungamente, ha lasciato la guida del Movimento 5 Stelle. Secondo lei ci saranno ripercussioni sul voto in Emilia, nel senso che magari una parte dell'elettorato di 5 Stelle potrebbe essere spinto a votare Partito Democratico domenica? Io penso che lui abbia lasciato e sia alla fine la conseguenza della scelta che il Movimento 5 Stelle ha fatto di stare con il Partito Democratico, scelta un po' forse anche imposta a lui da Grillo, per cui si sono allontanati e hanno abbandonato quelle che erano molte linee, una parte del pensiero insomma dei 5 Stelle. In Emilia Romagna io faccio veramente fatica a pensare che un elettore che vota 5 Stelle possa in qualche modo votare Bonaccini, perché il bacino di voti, ma anche della Lega, dei 5 Stelle ancora di più, in Emilia Romagna proviene da una sinistra scontenta. Qua la sinistra aveva delle percentuali molto alte, per cui l'aumento ovviamente dei voti nostri, come i voti 5 Stelle, provengono da lì, per cui un elettore critico, quello che ora vota 5 Stelle verso chi ha governato finora, per cui anche Bonaccini. Allora, al di fuori di quello che possono essere le discussioni che ci sono state anche quando Corriamo, loro erano indecisi, qualcuno di loro, se correre assieme al Partito Democratico anche in regione o correre da soli, erano molto legate a persone che già erano in consiglio regionale, persone magari che avevano già in discussione o speravano di affrontare discussioni, penso, su assessorati o altri ruoli all'interno. L'elettore poi, che è un'altra cosa, non credo e non penso che, cioè, fa fatica a riconoscersi, e lo vediamo poi nelle percentuali anche dei sondaggi a livello nazionale nel governo a Roma fra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Non penso assolutamente, qui dove il Partito Democratico lo vive proprio direttamente, ha votato, io voglio ricordare, sono nati qua poi i grillini a Bologna in specifico, sono nati qua e sono nati come forma di opposizione a quello che era il Partito Democratico e le politiche portate avanti dal Partito Democratico, che ha visto Bonaccini presidente nell'ultimo mandato, ma prima era assessore, cioè è sempre insomma un uomo di struttura, per cui Ascolti Borgonzoni, visto che siamo alla stretta finale, parliamo anche un po' della regione, insomma, no? La prima cosa che intende fare nel caso diventasse presidente? Io la prima cosa, l'ho detto fin dall'inizio, è un taglio alla burocrazia, che è una cosa a costo zero, si può dire, per chi amministra, però è una grande soluzione per tante cittadini e soprattutto per le aziende. In pratica, anche in Sardegna in pratica, hanno fatto un taglio di 400 leggi e norme immediatamente, perché c'è un accumulo di norme e leggi immenso. E poi sulla questione delle risposte, viene fatto in tante altre regioni, noi per avere una risposta all'allargamento di un capannone, per dire, in quella parte che dipende dalla regione, poi certe parti dipendono dai comuni, per cui può la regione comunque normare e cercare di dare dei paletti, ci mette 6 mesi, un anno e mezzo, anche di più. Dare risposte velocemente, tagliare norme e leggi che onestamente non servono a niente se non a complicare di più. Io faccio sempre questo esempio: quando c'è stato il terremoto si era partiti con un'ordinanza da 33 pagine venduta come smart, semplice, accessibile a tutti, è diventata di 130-140 più una serie di specifiche per non so quanti punti dentro. Molte aziende hanno rinunciato a prendere fondi e soldi che gli spettavano perché era troppo complesso, e per cui questo serve per me anche mettere meno burocrazia, tutto più chiaro. Serve anche perché tutti possano accedere allo stesso modo a servizi, bandi, altrimenti ora spesso ci accede chi magari ha qualcuno che conosce dentro l'ufficio che gli può spiegare come compilare le carte, e credo veramente che sia una cosa almeno ingiusta, definiamola ingiusta. Senta, oggi il giornale, se non sbaglio, o La Verità, adesso mi confondo ma vado subito a vedere, no, è La Verità, il quotidiano La Verità, titola "Il sistema PD in Emilia si regge sui parenti". Sarà così in Emilia, ma insomma è una cosa che abbiamo sperimentato per esempio anche a Roma, al comune di Roma, qualche anno fa, quando si scoprì che i parenti erano sistemati in varie aziende pubbliche. Lei che cosa farà o farebbe su questo sistema, diciamo, familista, se diventasse governatore dell'Emilia Romagna? Per quanto riguarda le nomine dirette, lì diventa ovviamente molto, molto più semplice. Per quanto riguarda i bandi, magari lì bisogna sì metterci mano e iniziare a ragionare come fare dei bandi che non permettano a dei giornalisti, perché noi in Emilia Romagna abbiamo questo fenomeno, ci sono giornalisti che provano a indovinare chi vincerà i bandi, anche quando ci sono più di 10 nomi, e li indovinano tutti, per cui vuol dire che probabilmente qualcosa di sbagliato nella formulazione di quei bandi viene fatto, perché noi abbiamo dei giornalisti indovini, o probabilmente quando vengono scritti, tutto nella massima laicità, però probabilmente vengono già disegnati su figure specifiche. Credo che i bandi forse sarebbe meglio li facesse, ci mettesse meno bocca la politica e fossero il più obiettivi possibile. Magari poi lo stesso, ci sono anche due fratelli o non lo so, una madre e un figlio che sono bravi tutti e due per dire in medicina, entrano in un ospedale, ci mancherebbe, non è che può essere un criterio ostativo questo. Però quando diventa una prassi e quando la percentuale diventa alta, magari ci dobbiamo chiedere che cos'è che c'è di sbagliato. E sicuramente quello di guardare un pochino meglio i bandi e cercare di lasciarli a maglie un pochino più larghe, perché non entrino già figure che sembrano disegnate ad hoc come un vestitino per certi, questo è il primo passaggio che bisognerebbe fare. Dovrebbero farlo tutti, noi lo faremo. Grazie Lucia Borgonzoni, candidata del centrodestra alla guida della regione Emilia-Romagna. Domani ospiteremo Bonaccini, ieri abbiamo avuto il candidato del Movimento 5 Stelle, quindi buona giornata. E oggi abbiamo avuto anche Callipo, esatto, buona, Partito buona Democratico. Buona fine di campagna elettorale. Cara Maria, ci sentiamo domani alle 8:20. A domani, ciao a tutti. Grazie a tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito, a Carmelo Lauricelli regia, Giorgio De Luca, Alessandro Marcotulli, Gloria Guerrera in redazione, Margherita Ina e Francesco Ciaraffo, i nostri autori. Noi ci risentiamo invece domani alle 6:30. Una buona giornata da Simone Spezia. Ciao.